l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori del 24, sono 10:08 primi e 26 secondi qui in diretta dagli studi di Milano, che riproducono dentro ancora un'atmosfera tropicale, malgrado che fuori faccia un pochino più fresco, ma tenteremo ciò malgrado di portare a voi tutti un po' di gioia e qualche punta di amarezza, soprattutto argomenti critici, numeri, come insomma nello stile dei nostri conti della Belva. E sono qui con me i compari, io sono Oscar Giannino che vi saluto e vi ringrazio, l'umile cameriere per le menti però molto più acute della mia che stanno in questa trasmissione. Mario Seminerio. Di chi parli, Oscar? Di chi parli? Di chi parli? I sostenimenti. Carlo Alberto Carnevale Maffè, ciao. Credevo di chi parli a proposito del cameriere, invece è evidente che il cameriere sono io. No, ma che... un po' di umorismo e autumorismo. Allora, cari ascoltatori, come sempre all'inizio della trasmissione vi diciamo i temi di cui ci occupiamo per chiedere di intervenire gentilmente o anche meno, potete anche farlo urlando, mandandoci a quel paese, potete dire di tutto, entro certi limiti naturalmente, ma 800 24 00 24 è il numero per intervenire, 349 238 6666 il numero per riservarci ciò che non volete dire a voce, quindi sarà ancora più pesante con le vostre opinioni. Mario Seminerio è il nostro scrutatore di queste cose e quindi vi risponderà a pan per focaccia. Di cosa? Assistente sociale. Il nostro assistente sociale. Siamo anche muniti comunque oggi di un'assistenza medica diretta, per questo, ma questa è la sorpresa che faremo in studio. Sì, vi risponde anche squaccherone per mozzarella se necessario. No, davvero, c'è una presenza medica in studio, poi sarebbe una sorpresa, perché questo serve per evitare a noi di reagire troppo, ma anche per moderare i vostri interventi, nel senso che disponiamo di un TSO che può essere emanato obbligatoriamente, per così dire. Allora, non sto scherzando, vedrete che c'è questa presenza medica, serve per autostabilizzare. Allora, di cosa ci occupiamo oggi? Ci occupiamo in buona sostanza. Prima, come al solito, abbiamo la rubrica nei quali facciamo qualche osservazione su quello che sta avvenendo. E ne avvengono di cose. A Bratislava, come avete visto, rottura al vertice europeo di ieri. Renzi vuole andare al 3% di deficit. Lo approfondiremo. Ma insomma, partiamo di là. Partiamo dal fatto che Confindustria ha rivisto al ribasso le sue previsioni da essere molto ottimista, come sembrava un po' a molti, è diventata realista. E quindi vedremo questa correzione al ribasso delle attese, cosa la giustifica, e qualche osservazioncina su quello che sta avvenendo a Siena, non proprio cosette leggere. Poi abbiamo, e siamo molto fieri e felici di questo, un grande blocco in cui è con noi Roberto Perotti. Roberto Perotti, lo ricordate, è commissario alla Spending Review che ha abbandonato l'incarico, ha fatto passare, perché è deluso dal fatto che la Spending Review non viene perseguita dal governo, ha fatto passare qualche mese di con un gentleman agreement di star buono e non far polemica, e adesso è uscito un libro bellissimo di cui parleremo, e questo libro secondo me va proprio letto, ma ne parleremo insieme a lui e starà con noi. Quindi il primo tema è ovviamente, sembra anche a voi, no? Che la spesa pubblica sia stata abbandonata, siete contenti, pensate che sia la linea giusta da seguire quando le cose vanno male, oppure no, pensate che sia una promessa non mantenuta. E avremo poi un altro grande blocco dedicato al bonus dei diciottenni. Il bonus dei diciottenni doveva partire il 15 settembre, il sito si è fatto un po' aspettare, il sito c'è, in realtà la cosa parte da ottobre. Siete favorevoli o meno a queste centinaia di milioni dati a chi compie 18 anni nel 2016? Cioè pensate che con i tempi che corrono le priorità sia destinare così la spesa pubblica per far andare i ragazzi a cinema, teatro, spettacoli all'aperto, comprare libri, oppure dite comunque è una buona cosa e vedremo, perché può essere anche una buona cosa se fatta in un certo modo, le promesse di farla in un certo modo ci sono, quindi può essere che dal punto di vista tecnico possa essere anche una buona cosa. Io sono contrario al bonus 18enni, come a tutti i bonus penso che bisogna farla finita con le mance elettorali, però questa è la mia radicale posizione, non voglio influenzare nessuno da questo punto di vista. E poi la rubrica che abbiamo iniziato dopo la pausa estiva su come si parla in politica, vi proporremo due esempi, ancora una volta De Luca e D'Alema, e con toni molto diversi, durissimi nel criticare, però con toni molto diversi, e quindi tenteremo di capire se c'è la possibilità, l'utilità di mettere un limite alla politica circense nel come parla. Si può essere durissimi nell'obiettare senza per questo però far girare deiezioni che servono solo a far perdere ulteriormente fiducia alla gente in quello che avviene. Al di là di questo, Mario, Carlo Alberto, cosa aggiungete come punti che vi hanno colpito in questa settimana? Ma io sono rimasto abbastanza colpito da questa ipotesi di reato. Praticamente la magistratura sta indagando sull'ipotesi di appropriazione indebita a carico di alcuni ex dirigenti apicali della UIL che avrebbero organizzato praticamente delle crociere usando ovviamente i fondi degli iscritti e dei tesserati. È stato, come riporta stamattina tra gli altri Repubblica, chiamato in causa l'ex segretario Angeletti, il quale ha detto che queste crociere che avvenivano ovviamente con le mogli erano in realtà dei momenti di brainstorming durante i quali si valutava la strategia sindacale per il pubblico impiego, i pensionati, per cercare quindi di fare stare meglio il paese. E quindi per fare stare meglio il paese è necessario che queste elaborazioni si svolgessero, si svolgono in un contesto assolutamente, come dire, farle al chiuso di una stanza per alcune ore così di brainstorming pareva brutto. E quindi sono arrivate queste crociere con le rispettive signore. Ora, questa è l'ipotesi di reato. Noi ovviamente siamo garantisti. Mourinho avrebbe detto: io sono garantista ma non pirla. Per cui, diciamo, aspettiamo che la magistratura faccia il suo lavoro. A me spiace molto perché avevo un interesse scientifico molto preciso a conoscere le elaborazioni teoriche, e però l'ex segretario Angeletti ha dichiarato che purtroppo non ci sono verbali delle riunioni avvenute durante queste crociere per capire un attimo l'elaborazione sindacale, probabilmente qualcosa di relativo ai lavori usuranti, diciamo, perché andare troppo in crociera logora, e questo è quanto per quanto mi riguarda, ecco. C'è anche il leader attuale, però, oltre a quello vecchio. C'è sì, anche sì, no, esatto, sì, sì, anche lui diciamo, è, in quanto dirigente apicale da sempre. Prendiamola così, come hai visto la crociera era verso il nord Europa, era per capire i modelli di efficienza. Era un modello, esatto, come fare a capire modelli che fanno della spesa pubblica una virtù e non un vizio. Esatto. Per cui se può servire anche andare nei fiordi, diciamo, e farci sopra una riflessione, ben venga, ecco, cari pensionati. Caro Carlo Alberto. A me ha fatto un po' arrabbiare il commento che è uscito ieri con le accuse di tradimento a Carlo Azeglio Ciampi. Io mi domando come fanno questi sovranisti leghisti a non capire che... come si fa a prendersela con un civil servant che è stato l'unico livornese un po' noioso, che invece che leggere Vernacoliere leggeva il Financial Times, no, quell'unico che ha sottratto la lira, lui leggeva sia il Vernacoliere che il Financial. Hai ragione, forse sì, quello che ci ha è l'unico, peraltro l'unico livornese noioso che abbia mai conosciuto in vita mia, l'unico che ci ha sottratto alla morsa soffocante delle spire del serpente monetario per l'ultima volta con l'ultima grande svalutazione salvifica della lira. È vero che poi ci ha fatto entrare nell'euro, ma non era solo merito suo, no? E i sovranisti che se la prendono con lui quando è stato l'unico a avere reintrodotto l'inno, la parata del 2 giugno, il concetto di patria. Mi sembrano un po' degli schizzati questi qua, no? Devo dire che io non avevo in grande simpatia Carlo Azeglio Ciampi, perché per me aveva un tono un po' troppo, come dire, distaccato, non aveva quella passione della politica necessaria per fare il Presidente della Repubblica, come ben vediamo, diciamo così, specialmente nello stile dell'attuale, ma non li capisco, li trovo un po' contraddittori, cioè un livornese che se ne va deve indurre a tutti noi un grande senso della perdita, perché sappiamo che Livorno è come dire, una delle conquiste dell'umanità. Io aggiungo solo questo, la vita mi ha regalato la fortuna per quello che ho fatto nella mia prima vita, quando facevo attività politica nel PRI, dirigente nazionale del PRI e così via. Ecco, era un partito con cui il rapporto con il governatore della Banca d'Italia, era molto stretto, anche perché lui si trovò a guidare la Banca d'Italia dopo questo osceno, infame, miserabile attacco che sbaragliò Baffi, un grandissimo uomo che non andò in galera solo per l'età che aveva, mi ritirarono il passaporto e mandò in galera invece Sarcinetti. Quindi un attacco osceno fatto dalla mafia sindoniana e dalla mafia andreottiana che comandava utilizzando magistrati fascisti della Procura di Roma, una delle pagine più orrende della storia italiana. E quindi io ho avuto l'occasione di conoscere, incontrare, parlare con Ciampi al di fuori dell'ufficialità. Una volta mi fece un cazziatone molto paternale e, come dici tu, Carlo Alberto, col tono freddo, però molto incazzato per una cosa che avevo scritto sulla Voce Repubblicana: contro l'IRI e le banche pubbliche. Pensate un po', fin dall'inizio ero un ragazzaccio, però me lo fece con un tono e con degli argomenti che non dimenticai mai. Ecco, l'unica cosa che vi posso dire è che non molti oggi, ricordandolo su decine di pagine sui giornali, ricordano che Ciampi per primo non avrebbe mai pensato né voluto fare assumere incarichi politici nel nostro paese, né quelli del ministro, né quello del presidente del consiglio, il governo tecnico che fu di transizione, e poi venne anche la presidenza della Repubblica. Lui considerava questa l'espressione di una politica arrivata a un tale livello di malattia di chiedere a persone come lui, che, come diceva Carlo Alberto, non era un politico, non amava la politica, non aveva il tono della politica, di fare una cosa che dice che mi costerà tantissimo, perché si ricorderanno polemicamente delle decisioni che sarò costretto a prendere in politica invece di quello che ho voluto fare per ridare dignità alla Banca d'Italia. Purtroppo, come si vede, è esattamente quello che avviene. Torniamo tra un minuto a traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non vi preoccupate. Eccoci qua con questa nuova sigletta così allegra, ma cioè, autoironica, appunto, perché dei gufi. Allora, Mario, questa settimana facciamo un po' di aggiornamenti, finanza pubblica, anche banche. Ma sì, ma allora... Mi ha colpito veramente l'aggiornamento delle previsioni del Centro Studi Confindustria, perché la stima di crescita del PIL per il 2017 è incredibilmente depressa. È vero che le stime chiaramente vengono aggiornate di volta in volta in funzione delle altre variabili, eccetera, però questo 0,5 atteso per il 2017, se si realizzasse, sarebbe veramente qualcosa di, non dico drammatico, ma estremamente preoccupante. Stiamo perdendo stima per le stime, caro Mario, perché francamente ricordo che le stesse entità avevano prodotto cifre mirabolanti. Gli 80 euro, se ricordo bene, no? C'era quell'impulso espansivo di 2,5% di PIL sugli 80 euro, che poi si è perso per strada. Io non ho ben capito se quello fosse un impulso una tantum diluito e come. Però, ripeto, a me preoccupa moltissimo questa stima. Mi auguro per una volta che sia sbagliata. Ovviamente non è che io mi auguri che le stime, diciamo, siano sempre corrette. Questa è un'ipotesi, dovrà essere aggiornata, ad esempio, con Banca d'Italia, con quello che verrà inserito nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Però vediamo, io ripeto, con un dato di questo tipo è assolutamente inquietante. Però questo mi permette anche di agganciarmi a quello di cui parleremo tra poco per quanto riguarda la revisione di spesa, perché il ministro dell'economia Padoan questa settimana ha ufficialmente escluso la possibilità di anticipare il taglio IRPEF al 2017 per manifesta mancanza di risorse, e però ha detto che la pressione fiscale è comunque in calo. Questa è un'antica querelle, diciamo, di cui non ci libereremo mai. Se andiamo avanti a dire che gli 80 euro non sono contabilizzati come maggiore spesa pubblica per prestazioni sociali, in realtà è riduzione delle tasse, non ne usciamo più. Perché io questa settimana ho scritto un commento abbastanza così per assurdo, dove ho detto: ipotizzate che un governo decida trasferimenti alle famiglie per 50 miliardi di euro il prossimo anno. Questo è aumento di spesa. E ipotizzate però che il governo medesimo dica: beh, ma questi no, in realtà questo è un errore di Eurostat che non sa contabilizzare la spesa, questi 50 miliardi sono meno tasse, per cui la pressione fiscale scende. Io capisco, però che cosa abbiamo? Un allargamento del deficit, e abbiamo quindi una situazione in cui questi soldi prima o poi dovranno rientrare. Quindi continua questo gioco degli equivoci, dove il paese chiaramente ha bisogno di fare deficit, ha bisogno nel senso che non che sia cosa buona e giusta, ma se questo paese non fa deficit muore soffocato, perché non ha capacità di crescita e di propulsione fuori dal deficit. E questo è abbastanza inquietante sotto certi aspetti. Poi parleremo anche nel corso della trasmissione del bonus ai diciottenni. Renzi ha detto che questo è un bonus che non è limitato a quest'anno, ma che conta di ripetere nel corso degli anni. Io ho una domanda che sorge spontanea: perché? Cioè, noi abbiamo veramente buttato via spesa pubblica in mille rivoli. Tra l'altro, qui c'è anche una incoerenza linguistica e metodologica, perché Padoan ha ribadito in settimana che magari dalla revisione di spesa ci saranno margini per tagliare ulteriormente le tasse. Anche qui, se noi abbiamo visto che la spending review non taglia realmente la spesa, ma, come dicono alcuni esponenti del governo e della maggioranza, la riqualifica, il ragionamento di Padoan non funziona. Io ho sentito ieri sera Luigi Marattin, persona di cui ho grande stima, dire: spending review non è taglio di spesa, spending review è riqualificazione di spesa per renderla più efficiente. Però dovete decidervi, perché se Padoan dice la spending review magari libererà spazi per ulteriori riduzioni di tasse e Marattin dice no, perché la spending review è riqualificazione di spesa verso una maggiore efficacia ed efficienza, siete in contraddizione e siete due tra i massimi esponenti economici di questo governo. Poi ultima cosa, abbiamo visto il solito teatrino al vertice di Bratislava, nel senso Merkel e Hollande che si fanno la loro conferenza stampa da diarchia. Renzi ha sbattuto la porta, può avere ragione, può avere torto. Io mi auguro solo una cosa, diciamo. Uno, che si prenda atto che la Francia è disperatamente aggrappata alla Germania come una cozza, praticamente, perché cioè, senza la Germania la Francia va a fracassarsi e magari succede lo stesso. Secondo punto, magari Renzi coglie l'occasione, dopo aver sepolto Ventotene nel giro di pochi giorni, perché era solo una photo opportunity, per rendersi conto che il problema non sono gli ottusi burocrati di Bruxelles, cioè la Commissione. Il problema sono i capi di Stato e di governo, cioè la dimensione politica dell'assunzione di decisioni. E se tu sei isolato o non riesci ad imbastire delle alleanze, non è colpa di Juncker, che pure sta facendo quello che può ed è una commissione assolutamente anomala, perché è proprio in palese attrito con il governo tedesco questa commissione. Quindi magari un giorno in questo paese ci sveglieremo e capiremo che non è un problema di burocrati a Bruxelles, è un problema di rapporti di forza. Allora, io credo in effetti che la rottura di Bratislava sia fatta, che è una rottura violenta, che lui ha caricato, no, la comunicazione sui giornali di oggi, alla stampa italiana, sto parlando del Presidente del Consiglio, riveli l'intenzione sulla legge finanziaria dell'anno prossimo, che è quella, a questo punto, visto che ci dite che la flessibilità ce la concedete solo per un anno, l'output gap, ha scritto la stampa questa settimana, tutto l'impianto italiano per rivedere il criterio di calcolo dell'output gap è stato messo in un angolo dalla Commissione Europea e così via, dice va bene, allora io vi sfido e faccio il 3%, vediamo se ci sbagliamo, ma è così. E quello che è evidente a noi osservatori è che la linea del MEF di Padoan è molto più prudente, cioè non crede molto all'utilità di questa sfida, però vedremo, perché è chiaro che la coperta si è fatta corta per la legge di stabilità rispetto a tutte le promesse fatte sui giornali italiani nel corso dell'estate. Con l'1,8% non ci vanno tutte queste cose. L'anticipo delle pensioni ci sarà già, ma quel capitolo era molto più ampio di quanto è stato per il momento illustrato, e tutta una serie di altre cose aspetta, per così dire. Primo, secondo, due osservazioni al volo. A me pare che, caro Alberto e caro Mario, la situazione sottostante dell'altro pentolone pericoloso per il governo, oltre a quello dei margini di deficit per l'anno prossimo per la legge di stabilità e al rallentamento della crescita italiana, che è molto forte, sia relativo alle banche. E i segnali che vedo io arrivare di là sono segnali preoccupanti per il governo, ma preoccupanti per l'Italia, perché l'uscita prima di Viola, e ci poteva stare anche se andava deliberata prima di lanciare il nuovo aumento di capitale, se la valutazione era questo ne ha già fatti due, sono andati bruciati, allora bisogna pensarci prima. Adesso anche del Presidente. L'emersione sempre nuove di particolari, sempre venduti come ottimistici, di versioni che, come avevamo detto, cari ascoltatori, fin dall'inizio, la manovra deliberata sulla cessione di NPL e aumento del capitale era fatta di tanti pezzi che, perché potessero funzionare insieme in maniera simmetrica, ci voleva la mano di un orologio svizzero, di un orologio svizzero. Invece, come vedete, non sta funzionando. Si è lanciata adesso l'ipotesi alla greca. Ah beh, però, cioè, alla greca significa che ci vuole la troica. No, ma no. Insomma, la verità vera è che qui si va verso un aumento di capitale fatto con, diciamo, stima atlante di valore del titolo. Questo significa anche peggio. Ecco. Sai bene che i prezzi non necessariamente devono andare in linea con i valori. Basta capirci che tutto quello che i giornali vi ammanniscono ha come sottostante questo, e che la famosa conversione volontaria delle subordinate. Volontaria. Volete voi convertirvi e credere alla verità sostanziale dei subordinati, vedrete, perché altrimenti venite mazzati, non è che ci prendete i soldi, mazzati col bail-in, esatto. Questo è il punto vero. Esatto, ecco, adesso io esatto. Non so come la pensate voi, ma questo sommato sul Sole di oggi, Veneto Banca in rosso per 259 milioni di euro. Vabbè, quella è pulizia. Quella è pulizia. Però intanto, come si vede, le due diligence della pulizia né nelle 4 del novembre scorso né nelle venete hanno funzionato. Esatto. Non mi pare un altro bel segnale per metterci soldi ai mercati internazionali a Siena e a Unicredit, che deve fare anche lei l'aumento del capitale. Che dite? No, infatti io... No, dico che hai ragione, di banche magari parliamo più tardi. Devo citare solo un ultimo punto su Bratislava. A tre mesi dal voto sulla Brexit siamo ancora qua ad attendere un segnale diciamo sintetico, qui nessuno si va avanti, siamo stalla, sai, surplus, come, sì. come i ciclisti fermi lì sul velodromo, sì, sì. Vigorelli, vai avanti tu o vado avanti io? Qua nessuno fa un passo, no? Ed è interessante perché anche il dibattito in Inghilterra è divertentissimo, no? Forse ne riparliamo a metà del 2017. L'Europa non sta dando un bello spettacolo. Sì, non stanno nello spettacolo, anche perché qui l'incertezza prosegue, le decisioni di prendere, non so, valutazione di investimento, cosa fare su Londra, che è sempre stato un perno importante, insomma, per certi snodi, è tutto fermo, signori. No, guarda che gli effetti non di Brexit, ma di questa incertezza poi si trovano per strada, in generale nelle politiche delle scelte aziendali. Delle scelte, come si fa a fare le scelte in questo quadro? Non delle si sceglie, no, si sceglie di andare in Cina. Che devo fare? Io appunto, non so, ieri ero a questo convegno Italia-Cina sulle tecnologie e i cinesi, ma non persone qualsiasi, ambasciatori, direttori dell'agenzia, hanno sciorinato numeri sconvolgenti. Mi viene da piangere a vedere decine qua. Di milioni di cinesi che eccoci usano gli health, cara dottoressa. Caro Alberto diventa comunista, lo sapevo. No, è che i comunisti sono bravi a fare le tecnologie, mentre questi democratici o presunti tali si perdono in mille rivoli, fammi dire sta roba. Sono bravi a pianificare, non credo, a pianificare si sbaglia sempre, diciamo che hanno numeri tali che si possono permettere. Quanti sono gli ingegneri alla ricerca di Huawei? 76.000 ingegneri alla ricerca e sviluppo di questa grande azienda che pochi anni fa, 76.000 ingegneri, ma manco li produciamo in 5 anni noi, tutti in una singola azienda. Numeri, la CIA ha numeri straordinari. Se ci agganciamo, mi spiace che non c'è più la nostra Rita, ma se ci agganciamo a questa grande enfasi, pensa che Alibaba ha venduto 100 SUV Maserati, sì, okay, in 18 secondi. Levante, giusto per farvi capire i numeri che sono in Cina su opportunità tecnologiche. Quindi è giusto lamentarsi di quello che succede qua, ma guardate che oltre l'angolo dell'Asia ci sono importanti segnali di interesse. Carlo Alberto sceglie la linea Forchielli, l'Oriente è rosso. Va bene, questo è il futuro che ci aspetta. Ultima osservazione, ma proprio non vi faccio neanche commentare su questo. Signori, a me Poste che si compra il 15% di SIA da CDP, Ferrovie che si compra sempre una società in Italia, mi fanno vomitare. Perché continuiamo a dire, le privatizzazioni non si sono viste, manca anche quello al bilancio del governo di quest'anno. La realtà è che c'è tutto un mondo nel silenzio, tranne che per gli iperaddetti ai lavori, Poste, Ferrovie, eccetera, trafficano incessantemente per prendere cose che non dovrebbero prendere. Adesso, quando leggo che Poste vuole anche Pioneer, mi viene il brivido, però ne parleremo quando semmai ci sarà. Mm-mm. Intanto lo scambio di soldi con CDP sull'operazione del 15% di SIA è una roba che segue i 3 miliardi di azioni di Poste che sono state ricomprate da CDP per fare avanzo di cassa al governo, ricordiamolo. Tante piccole iri, sì. Torniamo tra poco. Conti della Belva. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta. E io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire sono un essere umano. Porca puttana, la mia vita ha un valore. Ecco, ecco, questa sigletta che noi utilizziamo, la utilizziamo in questa settimana per invitarvi, cari ascoltatori, a comprare e leggere avidamente un libro che è appena uscito per Feltrinelli. Il titolo è Status Quo, perché in Italia è così difficile cambiare le cose, parentesi, e come cominciare a farlo, quindi non c'è solo Pars Destruens, c'è anche quella Costruens, e questo libro vi farà, spero, molto arrabbiare e molto riflettere, non solo arrabbiare, perché questo è populismo, ma riflettendo e leggendolo potrete dare alimento a quello che pensate come contribuente, no? Perché è un libro nel quale si condensa esperienza, molti documenti, molti numeri, fattuali, si parte dall'esame perché bisogna in questo paese, in questa condizione di debito pubblico, eccetera, eccetera, pensare a una riduzione della spesa pubblica. E ci sono 5 ragioni per farle, ma prendendo anche in considerazione chi dice che invece non bisogna farlo. Si smentiscono tesi del tipo: ma il debito pubblico perché preoccuparsene se è così elevato italiano e continua a salire? Tanto gli italiani sono più ricchi degli altri per garantirlo, e questa non è una buona ragione, perché quello che conta è solo quanto il mercato ci stima in grado di essere solventi, e purtroppo noi non abbiamo molte condizioni favorevoli per essere considerati bene. Ma soprattutto, si passano poi in rassegna, capitolo per capitolo, tutto ciò che si è fatto o non si è fatto in questi anni, e prevale il non si è fatto. Si smentisce la tesi del governo dei tagli di spesa di 25 miliardi perché si passano in rassegna le due ultime finanziarie e si vede che a 24 miliardi di minor spesa disposta dal governo corrispondono 20 miliardi di spesa aggiuntiva. E se poi però si levano i tagli dei trasferimenti agli enti locali, che magari gli enti locali pareggiano con aumenti, ecco che il taglio di spesa non c'è, e di fatto non c'è. È inutile fare polemica politica su questo. Dopodiché, e qui mi fermo prima di presentarvi l'autore, capitolo per capitolo, iniziando da tutti gli organi costituzionali, quindi la Corte Costituzionale, il Parlamento, le regioni e a scendere fino alle partecipate pubbliche, la magistratura, i diplomatici, troverete dettagliate la distanza abissale tra ciò che dicono di aver fatto in questi anni e la realtà. Ciascuno di questi organi ha mentito per la gola, perché i tagli presunti sono perché portano fuori bilancio delle spese e quindi non ci sono, e la realtà resta quella di un paese in cui i componenti del Consiglio regionale della Lombardia beccano due volte la retribuzione dei componenti del Parlamento del Massachusetts, e così via. I diplomatici italiani che dicano, da metà del 2015 hanno addirittura azzerato ogni possibilità di fare confronti reali con quelli di altri paesi, ma restano i più pagati del mondo. Ognuno, anche nelle regioni, dopo gli interventi dei governi, ha abbassato la parte tassata contemporaneamente delle retribuzioni, contemporaneamente magari aumentando l'indennità non tassata, e quindi oggi 9 regioni prendono più di prima, e così via. Mi fermo a questo. C'è anche tutto ciò che riguarda i sussidi alle imprese, ciò che riguarda settori come il cinema, l'ippica, i contributi ai giornali ed editoria, fino ai bonus 18 euro e fino alla follia di un paese che solo per il contrasto alla povertà, di cui si occupa poco e male, perché questo è un paese che ha l'indice di distribuzione dei redditi meno differenziato, cioè meno preoccupante prima che lo Stato dia i suoi sussidi. Dopo che interviene il welfare diventiamo più squilibrati, quindi abbiamo un welfare che significa non è fatto per chi ne ha bisogno, e anche qui tutto documentato. Solo l'INPS ha 8 strumenti diversi per il sostegno e l'integrazione alla povertà, eppure noi siamo all'esplosione della povertà assoluta. Chi è l'autore di questo libro, che chiedo a tutti di leggervi? Chi è l'autore? Chi è questo tecnico bocconiano che si permette di scrivere un libro semplice, comprensibile, cioè giusto due formule contabili, una roba semplice, no, dai, invece di queste belle equazioncine alla Bilderberg, è no? Il professor, dillo con tuo collega, aspetta a te dirlo. Ma, il no, ma come si permette, un rettiliano anche lui, ecco, insieme a Fausto Panunzi. Roberto Perotti, benvenuto. Buongiorno, grazie. Grazie dell'accoglienza soprattutto. Roberto, Oscar ti ha fatto già un panegirico, ma io non voglio metterti troppo a tuo agio. Questo è un bel libro che ci siamo divorati tutti in queste ore, per la verità, è appena uscito, ma che ci racconta con amarezza, con grande amarezza, questa tua esperienza. Ci vuoi raccontare cosa ti ha spinto a scriverlo e quali sono i messaggi chiave che vuoi dare agli italiani? Cosa mi ha spinto a scriverlo? Veramente era un intento non particolarmente critico su questo governo, era un intento, diciamo, costruttivo, nel senso che non volevo raccontare la mia esperienza, che appunto peraltro non credo che interessi a nessuno, ma volevo trarre alcune lezioni dalla mia esperienza per dare un contributo e cercare di migliorare il processo decisionale che porta a prendere decisioni di politica economica. Questo era il contributo, cioè cercavo di essere costruttivo. Ma veramente le uniche decisioni che emergono sono quelle di bloccare tutto, conservare lo status quo, come giustamente dici tu, e ostacolare in maniera scientifica ogni tentativo di introdurre logiche di comparazione di valori, standard di prezzi. È questo quello che emerge dalla fotografia amara del tuo testo? Beh, diciamo, io non ho un giudizio così negativo del governo. Non ho un giudizio così negativo, alcune cose sono state fatte, non ci si può negare che per un governo che deve compensare diversi interessi, diverse pressioni, sia difficile fare certe cose, per esempio toccare le pensioni, soprattutto in anni elettorali, questo non sarebbe irrealistico pensarlo. Quindi non alcune cose sono state fatte bene, cioè non si può, altre ci sono pressioni molto forti. E però, diciamo, un messaggio del libro è che non è solo una questione di pressioni, che sono comprensibili, accadono, ci sono in tutti i paesi del mondo, non certo solo in Italia. La mia impressione è che in alcuni casi ci sia anche un po' di mancanza di voglia di raccogliere dati, mettersi giù a lavorare. È proprio quel duro lavoro di cui parli. Quindi in realtà la tua è una critica più alla burocrazia, a quei corpi intermedi della Repubblica che sono la vera zavorra. È vero, tu non fai critiche politiche, però fai notare come la melassa burocratica è in grado sostanzialmente di tacitare e fermare qualsiasi tentativo di razionalizzazione. Sì. Parlaci di quello. Non solo la melassa burocratica, ma anche a livello di ministeri e di ministri, perché insomma anche i ministri a un certo punto devono sporcarsi le mani e capire di cosa stanno parlando, di cosa stanno facendo, devono capire i dati, dovrebbero capire le esperienze, studiare le esperienze degli altri paesi. Insomma, non è solo una questione della famosa burocrazia, ma la mia impressione è che anche a livello dei singoli ministri proprio. Però hai fatto qualche esempio, per esempio i giudici della Corte Costituzionale, è godibilissima quella parte del testo in cui racconti i commenti, i tentativi di arrampicarsi sugli specchi di qualcuno che voleva giustificare stipendi oggettivamente fuori da ogni parametro internazionale. Raccontaci qualche aneddoto. Beh sì, uno è quello appunto della Corte Costituzionale, hanno degli stipendi che sono tra il doppio e il triplo di quello di qualsiasi altro giudice della Corte Costituzionale, forse escluso quello dello Zimbabwe, ma insomma dei paesi che conosciamo noi. Resistono da anni a qualsiasi tentativo di ridurlo. L'ha ridotto leggermente un anno o due anni fa, ma insomma tra i privilegi che hanno, per le case che hanno a Roma gratis, auto blu eccetera eccetera, e stipendi fuori misura, rimane secondo me un vero e proprio scandalo. E comunque anche la Corte Costituzionale, documenti nel libro, dal 2015 sostiene di avere fatto una riduzione di spesa semplicemente perché ha deciso di mettere fuori bilancio una parte della spesa delle pensioni. Tutto qui. Sì, quello è una cosa veramente... cioè comprensibile e incomprensibile allo stesso tempo. Ma il pregio del tuo lavoro è proprio questo, che mette proprio i puntini sulla ricostruzione dei modelli di occultamento, come chiamarlo, della spesa, no? Però lasciatemi dire che ci sono in due circostanze, in due passaggi del libro, anche qualcuno in più, tre o quattro volte, si ricostruisce senza fare nomi e cognomi, con grande senso della discrezione, senza voler fare polemica, però gli incontri notturni prima delle bollinature delle leggi di stabilità sugli emendamenti, con la mitica telefonata che arriva alle due e di notte, si capisce che il senso degli esami di tutte quelle carte con gli emendamenti non è quello di un criterio, diciamo, economico, cioè diamo priorità a quelli che hanno maggior impatto costi-benefici sull'output gap e così via. No, primo, perché non c'è tempo, non c'è modo, cioè non c'è una regia. Primo. Secondo, Come ovvio, quando si arriva ai temi delicati, interventi su retribuzione di dirigenti pubblici, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, lì improvvisamente, tac, si attivano alcuni super dirigenti che a quel punto dicono no, questo è meglio di no, questo è meglio di no, questo è meglio di no. Ma lì è la politica o sono loro? Però? Esatto, questo è il dubbio. Sono entrambe le cose. Sui dirigenti, per esempio, non c'è... sui dirigenti pubblici a vari livelli, cioè ministeri, regioni, eccetera, includo anche i magistrati, che qualcuno potrebbe non considerare dirigenti in senso stretto, eccetera. Lì secondo me non c'è la consapevolezza, cioè come facciamo noi a sapere se qualcuno guadagna troppo o troppo poco, soprattutto nel settore pubblico in cui la valutazione è molto difficile. Non è facile, però una cosa ovvia da fare è vediamo quanto guadagnano i loro omologhi all'estero, in paesi civili ben amministrati come Francia, Germania. Cosa a cui loro si sono opposti in tutti i modi, dicendo che la comparazione non è possibile perché le diverse composizioni, il sussidio, gli indicatori sono diversi e così via. Però... Sì, in realtà la comparazione è possibile, cioè bisogna mettersi lì, lavorare, non è che si fa in tre ore, però insomma con internet, con gli strumenti moderni, l'uomo è andato sulla Luna, può anche comparare. Come ti permette di usare internet? Per esempio il censimento delle auto blu è stato bellissimo nel tuo racconto, dicevo, ce n'erano 90.000 perché la risposta al questionario era 97%, dopodiché sono scese a non so, 60.000, qual è stata la precedente risposta? 60%, semplicemente hanno evitato di rispondere ai questionari, quindi le auto blu sono sparite. Questo lavoro duro di raccolta dei dati, no, per dare un'idea agli ascoltatori, la diminuzione stimata da 66.000 2014 a 22.000, quindi una max riduzione, abbiamo sgominato il fenomeno, si deve al fatto che nel 2015 ha risposto solo un comune su tre. Ecco, questa è stata la base statistica su cui si è arrivati a questa basta max tacere riduzione. E le auto blu scompaiono. Esatto, sì, sì. Cari ascoltatori, rifletteteci, perché ripeto, nel frattempo noi abbiamo il numero di dirigenti ministeriali, quelli centrali, quelli italiani, resta del 50% superiore a quello del Regno Unito e sono pagati il 20% in più in media di quello del Regno Unito. La parte dei dirigenti regionali è godibilissima, ma è godibilissima nel senso che vi renderete conto di criteri un po' singolari, per cui ci sono regioni dove il dirigente regionale per il servizio biblioteca del consiglio regionale porta a casa 170.000 euro. La domanda diventa: ma quanti ci entrano con la biblioteca l'anno? Ecco, resta così. Ma interventi su queste voci, che obiezioni amministrative forti, superabili possiamo avere? Perché di solito ci si dice, se si vuole intervenire su questo o quella fascia, eccetera, eccetera, non si può, perché ci pensa poi la Corte Costituzionale. A questo l'economista cosa risponde? Beh, l'economista, l'unica cosa che può fare è aver interrogato un po' di esperti di diritto costituzionale, i quali mi hanno detto che volendo ci sono gli strumenti per agire, per esempio sulle regioni, si possono dare delle fasce, delle indicazioni non puntuali, che per qualche motivo la Corte Costituzionale riterrebbe incostituzionale, ma invece delle fasce, per esempio di retribuzione o di numero di dirigenti, comunque tenga presente che il governo centrale, se vuole, ha sempre uno strumento molto efficace, che è quello di ridurre i trasferimenti alle regioni o agli enti locali che non soddisfano certi criteri, quindi volendo, se volesse, potrebbe farlo. Mentre invece mi pare di capire sulla lotta alle partecipate, siamo ancora caro amico, qui c'è un capitolo in cui si esamina anche il decreto legislativo di attuazione della delega Madia su questo, e io ve lo consiglio, cari ascoltatori, perché capirete che da come è scritto il decreto, intendo in termini amministrativisti invece che economici, in realtà ogni eccezione resterà possibile. Torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qui tornati in studio dai compari dei Conti della Belva, e abbiamo con noi Roberto Perotti, l'ex commissario della Spending Review, che ha condensato un bel po' di cifre e di ragionamenti sulla sua esperienza, no, in generale su come questo capitolo va affrontato in questo bellissimo libro Feltrinelli. Consigliamo a tutti, il titolo è Status Quo, perché in Italia è così difficile cambiare le cose e come cominciare a farlo. Allora, dicevi, caro Alberto. Passiamo a questa seconda parte, perché la parte di fotografia è godibile, divertente, triste, diciamo disarmante, se posso piena dire. Di dati, piena di dati, leggibili, senza neanche una regressioncina, un'equazioncina, scritta in maniera semplice. Non lo so, io mi domando veramente se siete ancora membri del Bilderberg, voi tecnici bocconiani, oppure avete basta tradito. Col colore, bella domanda. Ma... la domanda è questa, invece. Roberto Perotti ammette sconsolatamente, ma onestamente, in un punto dice: ma ho capito che la revisione vera della spesa pubblica, i livelli della spesa, tocca ai politici, i tecnici non la possono fare. Devono però a questo punto, e devo chiedere a Roberto, fare un altro mestiere, che è quello di essere in grado di costruire puntualmente le voci di spesa e magari di rivedere i processi. Mi faccio soltanto un riferimento a quello che succede in Inghilterra, per esempio, no? Penso alla spesa farmaceutica, alla spesa sanitaria. Lì hanno lavorato per non più soltanto minimizzare i costi degli input, come stiamo cercando di fare noi con 20 anni di ritardo, ma per studiare il valore degli outcomes, e cioè pagare, insomma, il benessere delle persone. Ah, certo. Questo vuol dire cambiare profondamente questa è la riselezione per qualità, certo. No? Ne parleremo dopo col bonus dei 18enni, perché quello è un tentativo, magari, come e quindi dire, a Roberto, a Roberto chiedo, passiamo alla Pascostroes, che eredità lasciamo a chi invece dovrà dopo di te, a Joram Gutgel, impostare il lavoro di un tecnico che aiuta i politici nel rivedere la spesa? È possibile oppure ci rinunciamo? Questa è una bella domanda. La mia impressione è che il problema di fondo non sia tanto tecnici verso politici, poi la distinzione in alcuni casi è un po' così difficile da fare. La mia impressione è che sia un tecnico formalmente, che sia un funzionario del ministero, chiamiamolo come si vuole, però quello che è importante è quando si prende una decisione avere degli elementi non formali, non fatti di regressioni, di studi econometrici, di studi accademici, eccetera, insomma un minimo per fare una comparazione. Io sto decidendo di usare 300 milioni di soldi, di euro del contribuente, ho il dovere di capire se è il modo migliore di usarle, se c'è un'alternativa migliore. Una di queste alternative peraltro è di non spendere e lasciarli nelle tasche dei contribuenti. E quindi per fare questo bisogna, insomma, sporcarsi le mani un minimo in un qualche capire possibili alternative, quello che è successo all'estero, così, ripeto, non una cosa formale accademica da secchioni, ma un minimo, diciamo. Esatto. E questo lo si può fare nei ministeri con dei funzionari minimamente preparati. Quando si arriva a un consiglio dei ministri, quando si arriva alla decisione politica, bisognerebbe avere un minimo di input su queste alternative. E infatti la documentazione di come questo non avvenga è uno degli aspetti, secondo me, più utili su cui riflettere, per come la capacità di poter mettere le mani dentro significa poter elaborare dei dati che consentano delle decisioni pesate. Non si tratta solo di riduzione in generale, ideologica, si tratta di capire: se spendo 200 milioni l'anno per i 38 ippodromi che non interessano più a nessuno in Italia, è giusto? Se triplico i finanziamenti pubblici al cinema italiano, e quindi li triplico rispetto alla Francia, paesi per sussidiato, è giusto? Il posto dovrebbe essere no, e così via. Invece questa visione non c'è, e questa visione porta, cari ascoltatori, per esempio, che tutti noi giornalisti ripetiamo che per le Olimpiadi ci saranno 177.000 occupati più, invece il professor Perotti dice no, sono 6.000. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I Conti della Belva. Ed eccoci tornati qui in diretta, cari compari dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. E devo dire che, ripeto, leggete il libro di Perotti, perché trovate anche... Roberto Perotti è molto educato e trattenuto nel suo stile di comunicazione orale. Quando parla, il quando libro, scrive un il po' libro meno, è accumulato, eh? È accumulato perché smonta in maniera fattuale, numerica, tante di quei documenti del governo, tanti di quei documenti, ripeto, per le Olimpiadi, no? Fa a pezzi la modalità con cui si dicono 177.000 occupati, no, veramente sono 6.000. Oppure, che ne so, la Boschi va in Parlamento il 7 giugno 2016 sulla riforma della PA e dice... la riforma della Costituzione, quella sul referendum, dice 500 milioni di risparmi di spesa, però si mette lì e dice no, veramente sono 100 rotti e qualche cosa. E poi Mariana Madia che dice: ma noi non facciamo la riforma della PA, esatto, per risparmiare. Ma no, ma non esiste, sono contenta di non farlo, di non farlo. E infatti non hanno non sanno, hanno fatto la riforma della dirigenza pubblica premurendosi di non capire qual è l'effetto sui dirigenti centrali e regionali. Quindi davvero è un libro che vale moltissimo la pena, perché su tante cose è un po' diversa da come i giornali, bevendosi tutto quello che viene dalla comunicazione ufficiale degli enti pubblici del governo, vi propone di giorno in giorno, perché la versione ufficiale è che i vitalizi li abbiamo risolti, che le retribuzioni del consigliere regionale le abbiamo risolte, che quelle dei magistrati li abbiamo... Non è vero niente, questa è l'amara realtà. Del resto, se non fosse così, non si capirebbe perché la spesa pubblica resta più o meno dov'è. Allora, qualche telefonata da parte vostra, ma prima delle telefonate, che dice il nostro pubblico stamattina? È rimasto? No, devo dire che oggi sono molto tranquilli. C'è un ascoltatore che chiedeva a Perotti, diciamo, se è utile il sì al referendum per la riduzione della spesa, soprattutto per quanto riguarda il titolo quinto. Questo mi pare... Nel libro va detto che lui si dichiara comunque favorevole al referendum. Si dichiara per il sì. Certo. Qui dice: le auto blu sono sparite solo perché le hanno dipinte di altri colori. Giusto? Perché poi, siccome è la metafora perfetta della spending review, basta cambiare vernice e scrivere il DEF con l'inchiostro simpatico. Esatto. Comunque, altro sulle partecipate, voi sapete che sulle partecipate in Italia sono rilevate da ben 5 osservatori pubblici, no? Perché ce n'è uno al MEF, uno alla funzione pubblica, uno alle pari opportunità, poi c'è l'Istat, poi c'è la Corte dei Conti. Naturalmente i conti continuano a tornare a non tornare tra tutti e 5, ma l'osservazione accumulata dai Perotti è la funzione pubblica, che ha appena fatto la riforma, cioè il decreto delegato legislativo sulla riduzione delle partecipate, ecco, alla banca dati della funzione pubblica, proprio a quella sfugge la metà delle partecipate. Queste sono le basi statistiche per fare costi benefici. Me lo fai citare un SMS fulminante? In farmacia, scrive Luca, in farmacia vorrei le pillole di Seminerio a fianco del Viagra. Io voglio far notare a Luca che noi le pillole non le abbiamo, no, le abbiamo solo in formato supposte. Questo è l'ascoltatore che ci ha mandato. La mia missione è scopare con tutti, questo o quello, per me pari sono. È questo, l'ascoltatore è convinto che Mario e noi avremmo il modo, però come non ne vogliamo, però capito Mario, tu adesso scusa, ci sarà una ragione per cui ascoltatori e ascoltatrici da tutta Italia ci dicono che qui c'è una ragione su cui bisognerebbe interrogarsi, su cui ci mandano le cose di guarda. No, vogliamo, scusa, risentiamola un secondo. Risentiamo. Senti, Inseminator, la mia missione è scopare con tutti, questo ma perché gli ascoltatori ci mandano queste cose, poi ci fanno le battute così, tu devi avere un grande senso. Ma guarda, io posso dire molte persone, diciamo, mi attribuiscono una mente penetrante, ecco, se devo dirlo. Ho capito. No, vabbè, ma questo è il modo per ed è ora che siamo scesi che la confezione inferi. Non era per via orale, che abbiamo avuto questo picco di trash, possiamo proseguire con una eleganza, se permetti. Sono gli ascoltatori, certo. Però biologicamente corretti. Allora, sentiamo un po' qualche telefonata invece. Mario, che si chiama dalla provincia di Perugia. Prego, Mario. Sì, buongiorno. Io sono molto sconcertato dal fatto che il debito venga proposto, o l'allargamento di spesa venga proposto come soluzione ad un paese che ha già il debito pubblico che sta strozzandoci. Sì. La seconda questione brevemente è che bisogna assolutamente rispettare gli impegni quando si prendono in merito alla spesa, di dire si riduce la spesa di quanto si investe, o perlomeno il risparmio serve ad investire, perché in questo modo la cifra vale doppio, ovviamente. La terza questione, brevemente, è che va assolutamente delegiferata la retribuzione che è frutto dei contratti di lavoro, perché con questo meccanismo si difendono come diritti acquisiti solo gli stipendi d'oro e le pensioni d'oro, tant'è che la Corte Costituzionale difende se stessa difendendo tutti. In effetti, su quest'ultimo argomento. Scusate, grazie, se... buongiorno. Prego Mario. Nel libro troverete anche nei due capitoli iniziali una rassegna critica non troppo tecnica, ma insomma andando al nocciolo delle diverse tesi che si affrontano a proposito della che effetto ha aumentare il deficit sul PIL, perché vi si spiegherà per esempio che mentre in generale voi sentite dire ma cosa vuoi tagliare la spesa, Giannino del cazzo sei un coglione, non capisci niente, zero titoli, ma proprio così, no, diciamo. Sì, no, questo è la media, la si capisce che non hai dato l'esame, la spesa, no? È tutto PIL, ecco, peccato che della spesa pubblica la parte del PIL è quella dei consumi pubblici, esatto. E degli investimenti, esatto. Tutti i trasferimenti, cioè le pensioni e cose. No, capite? Ecco, quindi forse queste cose qui bisognerebbe un pochino saperle. Non solo, ma i trasferimenti in situazioni in cui non c'è rendimento diventano come dire, occultati in contanti che rimangono nel materasso e manco vengono trasformati in, esatto, investimenti privati. Quindi, naturalmente, c'è la famosa storia del moltiplicatore, anche qui godibile la parte di Roberto Perotti, perché c'è chi propone moltiplicatore 30 della spesa pubblica. Se fosse così, capito? Tanto varrebbe fare deficit e debito a gogo, tanto il cresce sempre di più e avremmo trovato l'araba fenice. Adriano da Lucca. Sì. Eccoci. Sono Lina. Sì, dica. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo dal discorso che io sono perfettamente d'accordo con lei, con i suoi colleghi, che l'Italia andrebbe completamente riformata, e questo è un dato di fatto, perché è un gran macello l'Italia. Certamente le soluzioni non sono facili, potrebbero essere anche molto molto molto drammatiche, un po' per tutti, e porterebbero a un dissenso politico non indifferente. Si vede già, del resto l'elettorato italiano ha rivelato in questi anni, no? Le sue tendenze tra 5 Stelle e Lega. Bisognerebbe avere il coraggio delle proprie azioni. Innanzitutto avere il coraggio, faccio per dire, no? Di mettere gli scarponi sul dove bisogna andare, e avere il coraggio di dire che ci saranno dei morti. È inevitabile, se vogliamo, ci sono dei morti. Se si fanno certe azioni... sono dei morti, ma l'Italia non è disposta a accettare i morti, giustamente, neanch'io. Allora Adriano, insomma, fermiamoci qua, no? Perché sui morti no, io sono convinto che bisognerebbe fare alcune delle cose che ci propongono, anche nel libro di Cottarelli, il fardello, ricordatevelo, leggeteli in contemporanea, in parallelo, prima l'uno e poi l'altro, ecco, per capire a che considerazioni sono arrivati i due commissari ultimi non utilizzati dal governo, se non per far finta. Questa è la mia opinione. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Allora, dal 15 settembre, promessa del governo mantenuta, c'è il sito sul quale potete prendere informazioni, ma diventerà operativo entro ottobre, c'è scritto, per accreditarvi, cari diciottenni, cara centinaia di migliaia di diciottenni che avete compiuto 18 anni nel 2016, per scaricare l'app e accreditarvi quindi all'accesso al beneficio secondo le categorie individuate in questa piattaforma tecnologica dal governo per la spesa che potrete fare fino a dicembre del 2017 del bonus 500 euro per voi, che vi abilita a consumi culturali, libri, spettacoli, teatro, cinema, eccetera eccetera. www.app18.it, questo è il sito. E io personalmente, con l'Istituto Bruno Leoni, vi rimando al nostro blog, ho una forte contrarietà ai bonus e non credo molto a queste cose. Detto questo, la cosa interessante sarà tentare di capire oggi, e questo che facciamo oggi, come è stata immaginata, strutturata questa grande piattaforma tecnologica. Esatto. E abbiamo con noi, prima di dare la parola a Carlo Alberto, abbiamo con noi il capo della segreteria tecnica, il sottosegretario Nannicini, perché è appunto al sottosegretario Nannicini che ha fatto capo, oltre che al Ministero dei Beni Culturali, la parte tecnica della messa in funzione e dell'ideazione di questa piattaforma, che ha delle caratteristiche di forte innovatività. Giovanni Lattanzi, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, Carlo Alberto, voi di avermi invitato. Carlo Alberto, no, facciamoci spiegare da Giovanni come funziona, perché ieri l'ho commentato con Antonio Sammaritani, è secondo me la più grande occasione di spreco di denaro pubblico in termini di efficacia potenziale, cioè sono i soldi peggio spesi con maggior successo, e questo quindi sono d'accordo. Per cui, al di là dei commenti sulla natura del merito, io voglio invece dar conto, e lo diciamo con filo di ironia e di provocazione, ma dal mio punto di vista con grande tifo, della soluzione tecnica che è stata adottata, perché è la più grande campagna di adozione di processi tecnologici mai fatta in Italia, diciamo con la scusa del bonus. Allora chiederei a Giovanni di spiegare come funziona lato beneficiari del bonus, quindi gli 580.000 diciottenni e le loro famiglie, ricordiamo, e lato centinaia di migliaia di merchant, cioè di esercenti che vorranno partecipare a questo processo, perché è il primo caso di voucher integralmente elettronici. Cosa devono fare i diciottenni e cosa devono fare gli esercenti? Allora, io comincerei dagli esercenti, proprio perché abbiamo aperto la piattaforma il 15 di settembre per dare la possibilità a tutti gli esercenti, ma non solo gli esercenti, ovviamente ci saranno i teatri, ci saranno teatri comunali, ma teatri anche nazionali, ci saranno musei piccoli, grandi, ci saranno di tutto e di più, sempre dentro le categorie approvate dalla legge di stabilità. Perché abbiamo cominciato con la possibilità agli esercenti di iscriversi? Proprio per far sì che i giovani, quando cominceranno a poter spendere il loro voucher, avranno una, diciamo, una platea di esercenti, di musei, di attività culturali, dove poter spendere questi voucher. Che però costretti, questi esercenti, i musei, a farlo in maniera elettronica. Non è prevista la modalità analogica, cartacea. Sono costretti a registrarsi e a prepararsi alla fatturazione digitale, altrimenti non verranno rimborsati. Assolutamente sì, ma è molto semplice, anche perché abbiamo fatto dei test precedenti e noi pensiamo sempre che ormai, dobbiamo pensare che la tecnologia ormai sta dentro di noi, quindi per gli esercenti è molto più semplice di quello che sembra e per i giovani sarà ancora più semplice di quello che pensiamo. Gli esercenti potranno iscriversi nella piattaforma che è www.18app.it 18app, ricordiamo. Perfetto. No, l'ho ricordato il sito anche perché prima era stato detto app 18, ma purtroppo la confusione si sta facendo molto spesso. 18app.it Devono registrarsi, altrimenti non prendono un centesimo. Devono registrarsi se vogliono aderire all'iniziativa, non è obbligatorio. E il fatto di poter registrarsi in questa piattaforma l'abbiamo fatto proprio per dare la possibilità a chiunque rientra e che fa attività culturale di potersi registrare, quindi dare la possibilità di vendere i propri prodotti, vendere i libri o anche per cercare di dare la possibilità anche al piccolo libraio del piccolo comune in provincia di Macerata. Quindi loro si registreranno. A quel punto la registrazione è molto semplice perché viene fatta con dei meccanismi che sono conosciuti a loro, che sono attraverso Entratel o Fisco Online, che è un PIN fondamentalmente, partita IVA e PIN, e poi devono mettere il loro codice ATECO, che è il codice dell'attività prevalente della loro attività commerciale. Dopodiché verrà associato a loro anche un codice della piattaforma, che sarà un codice che loro dovranno utilizzare per entrare dentro il sistema e poter operare. È molto semplice perché i gli esercenti avranno la possibilità di poter riscuotere il voucher semplicemente attraverso l'immissione di un codice alfanumerico che verrà generato dal giovane. Ecco, il giovane invece cosa deve fare? Deve iscriversi a SPID, okay. Deve allora, quindi ottenere le credenziali del sistema pubblico di identità digitale, e quindi è la prima volta che arrivano sul sistema SPID quasi 600.000 famiglie. Questo mi sembra la notizia più interessante, perché se vogliono accedere a questi 500 euro fanno il santo favore di diventare digitali anche loro. Questa è la notizia, sì. Allora, l'idea di avere SPID, io sinceramente SPID ho testato io personalmente, sono andato a testarlo per vedere se era difficile, veloce, molto lento, ed è stato molto semplice. Io non ho una grande predisposizione agli strumenti tecnologici. Malissimo Giovanni, perché dobbiamo dare il messaggio: non soltanto SPID consente di accedere a questi centinaia di migliaia di merchant che vogliono partecipare di esercente, ma anche a quasi 4.000-5.000 servizi pubblici di pubblica amministrazione. Quindi è quello che stavo dicendo, è proprio questo, nel senso che non è difficile, perché in questi giorni c'è stato anche qualcuno che diceva: ma è difficile, è complicato SPID. SPID è semplicissimo, quindi i ragazzi accederanno a SPID, è una bellissima campagna, noi l'abbiamo sostenuta e la sosteniamo, e proprio per questo ci sarà per la prima volta una grande piattaforma e una grande platea di ragazzi che sono oltre 574.000. Calcoliamo anche che questa è una novità. Siccome abbiamo nel corso dell'anno abbiamo modificato la norma e abbiamo dato la possibilità che l'accesso a questo bonus sia anche per i ragazzi extracomunitari residenti in Italia con permesso di soggiorno valido, e anche SPID potrà essere preso dai ragazzi extracomunitari. Certo, ci sono 34.000 ragazzi di origine extraeuropea che verranno portati su SPID. Faccio una domanda. Che fino a poco fa non potevano, quindi anche SPID ha fatto un'evoluzione. Siccome seguivo dall'inizio dell'anno la faccenda del Bruno Leoni, noi il decreto attuativo non l'abbiamo visto. Sì. Dopodiché abbiamo visto a 6 settembre, cioè pochi giorni fa, emergere da fonti ufficiali la notizia che il Consiglio di Stato diceva, rispetto alla bozza di decreto, il perimetro delle materie a cui si applica secondo la legge di stabilità, ricordiamo la legge di stabilità diceva che il bonus attraverso carta elettronica consentiva di poter assistere a rappresentanze teatrali cinematografiche per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, spettacoli dal vivo. E il Consiglio di Stato, nel suo parere, dice: beh, è una definizione però troppo ampia, bisogna che voi la circoscrivete per capire i soggetti che abilitate, cioè certo, quali filiere abilitate e quali no, cioè quali, per essere chiari, quindi, e farci certo capire anche i cinepanettoni nei film o sale d'essè, quali spettacoli dal vivo, appunto, anche i concerti di musica pop, i libri di cucina. Ecco, allora, siccome la risposta noi la stiamo aspettando ma non l'abbiamo capita, ma nel frattempo parte, voi come l'avete adempiuto l'invito del Consiglio di Stato? Cioè, quali sono i paletti, chi sì e chi no? Beh, in realtà il Consiglio di Stato non dava tutti questi paletti, almeno l'interpretazione che ho dato io a quel parere. Comunque sia, noi non possiamo limitare la decisione di un libro sì o un libro no, un concerto sì o un concerto no. Ah no, ma è importante saperlo. Quindi la cultura è cultura. Tutto. Quindi comunque, i giovani saranno tutti libri, esatto. Non possiamo dividere. No. Se la buttiamo nel merito, diventa un po' un problema. Però voglio dire, è possibile anche. Però siccome non tutti gli spettacoli teatrali sono organizzati da teatri organizzati in forma giuridica che siano rappresentati e così via, le rappresentazioni all'aperto sono così. Devono avere l'iscrizione al sistema, diciamo che esattamente la garanzia dicendo, di qualità è nel processo e non nel merito. La garanzia nel processo, nel senso che comunque sia devono essere tutte strutture, quindi possono essere società, organizzazioni, eccetera, che hanno il riconoscimento giuridico e che si sia siano iscritte, e questa iscrizione, ecco, ricordiamoci che viene validata comunque sia dal MIBAT. Sì, quindi, sì, sì. Però la cosa importante è che il primo grande esperimento di voucher digitale pubblico che può costituire, sì, base per il futuro, quindi buoni scuola domani, buoni salute, buoni... Io sono d'accordo, soldi buttati via a fin di bene, se posso dire. No, sono d'accordo con voi. Cioè, la cosa innovativa è che invece di sussidiare direttamente le filiere, noi rispettiamo la scelta del consumatore, perché questo, certo, è perfetto. Però perfetto, resta il fatto che noi stiamo sussidiando per una roba i diciottenni, mi dispiace, se li spenderanno in sesso, droga e rock and roll, speriamo non la droga, sulle altre due lasciamoli liberi, no? Prego. Ci sono a questo proposito numerose reazioni, perché diciamo il tema colpisce molto. Devo dire che ad amplissima maggioranza la reazione è di tipo ricardiano, nel senso, c'è un ascoltatore che scrive: questi bonus poi dovranno rimborsarli, e siccome i giovani non lavorano saranno i genitori a pagare. E che è una cosa, diciamo, da, come dire, un altro, no, così, che è abbastanza... No, non è stato compreso, diciamo. C'è un'altra cosa, diciamo. No, sicuramente, diciamo, io distinguerei l'aspetto digitale dall'aspetto proprio della spesa pubblica impegnata, esatto, nell'attività, diciamo, al netto della spinta alla digitalizzazione che Carlo Alberto sottoscrive e a sua volta spinge al massimo. Che ci tocca fare. Anche perché, allora, vabbè, a parte gente che scrive: ora che Fedez sia cultura mi sembra un po' eccessivo, quello, diciamo, fa parte dei gusti e delle preferenze individuali. Un altro scrive: però per i giovani sì, forse. No, assolutamente. Un altro scrive: ho sentito che parecchi insegnanti hanno utilizzato il bonus da 500 euro, quindi ovviamente parliamo di un bonus differente, diverso, precisiamo, per acquistare PC o tablet made in Corea. Oltre al danno, spesa inutile, una beffa per le nostre aziende. Anche questi, ripeto, diamo voce. In Italia produciamo tablet. Questi sono i sovranisti che vorrebbero un bonus all'acquisto solo per prodotti fatti naturalmente, certo, in Italia. Però diciamo, però scusate, non per fare il sovranista, anche perché non lo sono, però diciamo che avere degli ascoltatori che fanno rimarcare che un impulso di spesa pubblica si disperde attraverso il canale dell'import è un ottimo, abbiamo le equivalenze contabili che penetrano nella mente italiana. Abbiamo gli ascoltatori ricardiani, abbiamo gli ascoltatori che si preoccupano del moltiplicatore del commercio estero, vuol dire che la nostra missione sta venendo adempiuta, dopodiché potremmo morire sereni. Caro mio, ma se noi sommiamo gli studenti bocciati da Carlo Alberto e i clienti che hanno preso i tuoi consigli e si sono salvati, guardate che eccoli qua. Chi sono? No, comunque, dite quello che volete, vedere questo esperimento di spesa pubblica discutibilissimo. Vedi Carlo Alberto? Aver dato retta a quello che invochiamo da tempo per la digitalizzazione dei consumi, la costruzione del marketplace digitale, i sistemi di accredito diretto che evitano ogni nero e così via. Però questa cosa renderà, adesso non mi deve rispondere ovviamente il nostro ospite perché non tocca a lui, renderà questo bonus permanente, perché la sua natura di marketplace tecnologico e le sue modalità innovative lo renderanno un punto che sarà insmontabile. E questo, io sono per primo a favore di questa modalità. Sarà un reddito di cittadinanza culturale. Amico solo mio. Per i diciottenni, ma dai, solo per i diciottenni che si vadano a vedere un po' di concerti. Solo per i diciottenni, perché i voucher siano digitali? Che si traduce così: ricordati che devi votare ai 18 anni. No, però, ma lo so che lei non può dire di no, però no, è così. Nel senso, no, io ovviamente non dico di no, però non è proprio questo. Cioè, no, ma infatti, vede che io almeno io la difendo, ma no, no, ma infatti io la difendo. Comunque, fatemi dire, per una volta ho visto la pubblica amministrazione italiana che coordinata riutilizza pezzi di software, ha le idee chiare sul processo, speriamo che tutto funzioni bene. Quindi, no, anche perché siamo riusciti a mettere insieme vari pezzi, come stavo dicendo, cioè, miracoloso, sono vari ingranaggi che abbiamo messo assieme. Il ruolo nostro, diciamo, del sottosegretario Nannicini, nostro, dello staff, eccetera, è stato quello di cercare di oleare, sull'oleatura siamo ben preparati, diciamo, noi che siamo abbastanza severi, andiamo io atto. Ho visto ho letto in questi ultimi periodi anche molti che dicevano: beh, ma il DPCM non è uscito, i tempi. Io sinceramente non è da tantissimo che sono a Palazzo Chigi, ho visto veramente delle procedure che sono abbastanza lente, ma perché ci sono dei tempi che sono dettati. e okay. Il garante della privacy che ci ha tot tempo, che potrebbe essere non 30 è... giorni, questa non è una giustificazione. No, certo. Cioè, non è che siccome i tempi delle procedure sono lunghi, allora non possiamo che darvi procedure lunghe. No, assolutamente questo... no, però noi abbiamo è cercato realismo, di agevolare, come dicevo, i vari meccanismi, e abbiamo cercato di oleare. Noi per la prima volta abbiamo introdotto una tassa contro l'inquinamento analogico. Chi non usa internet inquina anche te, devi smettere, se no non gli diamo neanche il bonus. Conclusione, noi diamo atto all'AGID e alla segreteria di Nanni Cini di aver fatto un ottimo lavoro tecnologico. Restiamo titolari del giudizio che è una immonda mancetta. Però ultima cosa rilevata da un ascoltatore, e oggi veramente sono basito dalla qualità degli SMS e dei WhatsApp, ma anche i figli dei ricchi riceveranno queste regalie del governo? Ecco, la risposta è sì. La risposta è sì. Questo è un bonus di natura anagrafica, esatto, e prescinde dalla capacità reddituale delle famiglie di provenienza. Non è collegato all'ISEE. Dopodiché ognuno faccia le proprie valutazioni. Buon lavoro a Giovanni Lattanzio e grazie. Noi torniamo tra un minuto. Dal lunedì 26 settembre, dalle 9 alle 10 e mezza, torna Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24, di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì alle 9, su Radio 24. Della belva. Allora, caro ascoltatore, rubrica in cui sottoporremo al vostro giudizio, al nostro giudizio, alcune scelte ogni settimana sugli stili, diciamo, con cui si interviene nel dibattito pubblico italiano. Non saranno sempre solo giudizi politici, spesso sì, spesso no, possono essere svarioni, possono essere tweet, eccetera, eccetera. Ma sentiamo due modalità di intervento nella politica, modalità critiche, ma molto diverse nello stile, in questa settimana. Cominciamo ancora una volta sul filone 5 Stelle, Roma, eccetera, eccetera, con il presidente della regione Campania, De Luca. Ecco, abbiamo visto emergere un trio, il Di Battista, il Luigino Di Maio e il Fico. Ecco, oggi si rivelano all'Italia, come dire, nelle vesti proprie. Luigino Di Maio, il chierichetto, Fico, il moscio, ovviamente, e l'emergente Di Battista, detto Dibba, il gallo cedrone, diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. L'Italia dovrebbe essere diretta da questi signori. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe. Ecco, questo è... Io il commento lo faccio dopo il secondo. Cioè, questo è il giudizio del spettacolare, teatralità pura. Devo dire le rede toni, di Filippo, le pronunce, diciamo, straordinario di Peppino, però stai dicendo, non di Edoardo. Sì, esatto. Posso dire, voi paragoniamolo con una seconda modalità. Qui siamo al teatro dell'assurdo. Qui stiamo parlando, anche qui, un fine dicitore che ha grandi ritmi e tempi nelle pronunzie, pause, variazione di toni. Diciamo. Ecco. E l'argomento è il giudizio sulla riforma della Costituzione, il dibattito della legge elettorale. Partiamo. È un pastrocchio che spacca in due il paese. Mentre invece ci sarebbe bisogno di un clima di collaborazione e di dialogo. Tutto era stato pensato, parliamoci chiaro, perché per un plebiscito personale. L'escalation era il sì e poi le elezioni. Adesso questo meccanismo è entrato in crisi e non si sa più bene che cosa fare. Anche per questo non si stabilisce la data, diciamo, che non si ha più chiaro in mente che cosa si vuole fare. certamente non è vantaggio di poco conto che la vittoria del no segnerebbe la fine di questa idea del partito di Renzi, del partito della nazione, di un progetto che ha creato una frattura sentimentale fra il Partito Democratico e una parte importante del popolo della sinistra. Allora, questo era D'Alema, ovviamente, rappresentazione del no. E diciamo critica radicale, frontale a Renzi, al suo partito, alle sue modalità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la domanda che io faccio ai miei due compari è: non è sano distinguere, tentare, anche per noi che facciamo comunicazione, sia pure ironica in queste due ore, però su cose serie, distinguere toni che, per quanto durissimi come quelli di D'Alema, però preservano una certa finzione di rispetto invece ai toni che usa De Luca, che hanno grandissimo successo, a dirvi la verità, che sono quelli della deprecazione diretta, della diminuzio distruttiva, del bombardamento che non lascia se non macerie umane. Ecco, io, vecchia scuola, sono vecchio, io quando sento De Luca rido, mi dico però una politica così si distrugge da sola, compreso De Luca diventa un attore dello stesso gioco di cui accusa di colpevolezza i 5 Stelle. Io purtroppo ho questa vecchia reazione, sono curioso di sapere se per voi bisogna tenerle queste distinzioni oppure no. Mario, vai avanti tu, va. No, io sinceramente credo sono due troll, ognuno a modo proprio, cioè De Luca ha questa, che poi voglio dire le origini hanno una grande importanza, perché alla fine perché usare queste perifrasi, queste circonlocuzioni, cioè lui va ad additare al pubblico ludibrio i suoi avversari attraverso la derisione. D'Alema è ben più sofisticato, diciamo, anche con la storia delle iene dattilografe al tempo che fu. Per cui alla fine, guarda che si tratta di due offerte di comunicazione che insistono su diversi segmenti di mercato, però il risultato finale è semplicemente il rafforzamento. Chi crede già ai rispettivi schieramenti trova questo bias di conferma. Quindi, cioè, per me sono due facce dello stesso poliedro, perché se tu dici vabbè, allora ci mettiamo a fare polemica politica con la razionalità e la confutazione, tu sai meglio di me, fatti un giro sui social. Figurati. Dove punto primo la gente non capisce un accidente, molta gente non capisce un accidente del testo, cioè prima a livello testuale l'ironia a volte è completamente ignorata, l'iperbole completamente saltata, le figure retoriche saltate. Allora, come troviamo un minimo comune denominatore? Cioè, o lo troviamo alla De Luca, in una maniera popolana, o lo troviamo alla D'Alema, in una maniera spigolosa che richiama l'austera e severa tradizione comunista, in modo dovremmo fare, oppure lo facciamo come Renzi, così questa forma di giovanilismo, no? All'inizio Renzi sembrava una specie di giovanotti riciclato, sì, certo. No? Poi alla fine la realtà lo ha percosso con violenza e adesso annaspa a sua volta. Alla fine è la realtà che tutto logora. Però i canoni di comunicazione sono quelli che sono. Io, a me De Luca diverte e invece sono, diciamo, anche D'Alema diverte in una maniera diversa però. Però io ti capisco e aggiungo a me stesso, tentando di ricordarmi, che in realtà la via della derisione, della teatralità, quella de Luchiana, in realtà è un classico, cioè nell'Atena del VI e V secolo le commedie, sì. Aristofane eccetera eccetera, vero, vero. Usavano nei confronti degli attori politici dell'epoca delle espressioni sbancanti più vero. O meno come quelle di De Luca, quindi è un sì, classico, è vero. E non è che voglio dire che me lo sono dimenticato, qualche studietto, qualche libretto l'abbiamo letto. Detto questo, però l'Italia vive una roba di crisi totale in qualunque tipo di attività pubblica. E la gara a fare comunicazione di questo tipo, che va dalla destra alla sinistra, da sopra a sotto, è una gara autodistruttiva, si distruggono da soli. Per esempio è in corso, finisce tra poco la convention di Stefano Parisi a sì. Megawatt a Milano, vedremo che cosa ne verrà fuori. Lì il tentativo è di un linguaggio completamente diverso, subito i giornali hanno detto beh no, ma così a noi tutti però Vero, per vero. Dire, che pensi Carlo Alberto? Ma penso che sono completamente d'accordo sulle critiche a questo questi attacchi ad hominem. Allora, specifico che in radio non si sente l'H, ma c'è un H davanti, no? Ad personam, perché sbancano il patto politico fondamentale, che è un patto sulle regole, non sulle persone, no? È questo paese che invece finisce sempre a parlare delle persone. Però se la sono andata a cercare sia gli amici delle 5 Stelle che il buon Renzi, perché hanno personalizzato i primi con la loro richiamo all'etica e all'onestà personale come elemento differenziante, invece che, scusate, è un sistema di regole che è alla base della Repubblica. Se la sono tirate addosso queste straordinarie, bellissime, godibilissime critiche che non condivido in termini di... sono mezze pippe, ma che critica è dire sei una mezza pippa? Efficacissima, amico mio, efficacissima. Perché è il linguaggio che vanno a cercare questi personaggi. Certo. D'altra parte, se sbagliano il Venezuela con il Cile, De Luca... e se sbagliano Parigi con Madrid, sono che dobbiamo fare? Con te. Però allora... capisci che De Luca, che c'ha i figli, no, che fanno gli assessori, brigante è un sistema di potere iperpersonalizzato. Non mi ritornare su, cioè, sulla non moralità è, non agli è colpa altri. Del padre, cioè, poi su, no, su Renzi... è colpa del padre, il sistema di potere l'ha messo in piedi lui, io mica. Ma non lo so, devo dimostrare, magari il figlio meritava. Invece D'Alema, secondo me, fa la critica rigorosamente leninista, no, della personalizzazione renziana di un partito che invece si è sempre comportato, secondo me, in maniera rigorosa, come una, come dire, un'entità organizzata forte. Lì invece riconosco la traccia storica del leninismo e devo dire D'Alema questo ci insegna sempre moltissimo. Facciamo alle logge avete sentito Carlo Alberto oggi inneggiare ai dirigenti del Partito Comunista Cinese e adesso al leninismo sovietico. Ieri ho fatto una slide che si chiama socialismo digitale. È finita. È tutto per rispondere all'SMS che dice che siamo alle solite lucubrazioni degli onanisti liberisti. Però amici dei comunisti. A proposito di questi, cari ascoltatori, adesso c'è il traffico e poi torniamo agli ultimi tre minuti destinati a un messaggio di sollecito, amore, compassionevole terrore, perché parleremo del Monte dei Paschi di Siena negli ultimi tre minuti. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Cari compagni, avete due minuti a testa. Il primo che comincia è Carlo Alberto, il secondo che comincia è Mario Seminerio. Allora, tentate di dire a tutti quelli che c'hanno una subordinata MPS che sono condannati allo sterminio, perché o la convertono. Ma non è vero, ma è il grandissimo privilegio. Tentate di convincere che non è così. Dai, forza. Sai, Carlo Alberto, dai. No, intanto c'è una legge dello Stato italiano che recepisce, che dice sostanzialmente che c'è un burden sharing, cioè studiatevi l'inglese, no? E quindi, siccome la banca va risanata, tocca agli azionisti per primi. Mi sembra che un po' di burden l'hanno preso, no? Direi sì. Ecco, perfetto. Dopodiché tocca ai subordinati. Io penso che sia semplicemente ciò che sarà necessario fare. Io sono molto più sereno invece, perché la cosa ve l'ha spiegata, perché spero, con l'hai. Grande maestria. Mi domando per chi li ha comprati, perché li ha comprati. Ma come, se li ha comprati, gli davano ragazzi, la solita storia, una normale strategia di portafoglio. Gli davano centinaia, no? Di punti base più delle però non ho capito, se uno ha comprato l'1% del suo patrimonio in subordinati, perché qual è il problema drammatico? Se uno ha preso il 90% del patrimonio, allora il problema sta a monte del mis-selling. Signori, io vedo la luce invece, non so voi. Vedi la luce? Non so, quando scoppia una bomba atomica c'è un bel lampo. Un grande di luce. Lampo, sì. Esatto. No, io non so che dire, se non che si vedeva la traiettoria, nel senso che il burden sharing avverrà, così come magari in forma, come dire, con un po' più di vaselina e meno brutalità, però avverrà, e soprattutto credo che questa sarà una operazione battistrada, perché arriverà un punto all'accentuarsi, esatto, un template, come diceva Dijsselbloem, esatto, dopo Cipro, all'accentuarsi dei disagi di alcune banche, la conversione in azioni delle obbligazioni subordinate sarà l'unica via. Bene, infatti vedi che sono speranzoso, perché quindi, è un segnale chiaro a tutti, quindi, gli altri. Se ne fa uno, perché gli altri tutta capiscano. Tutta la fuffa che ci è stata scatenata contro per un anno da chi diceva servi della stupida regola europea, la BRD, e bisogna sollevarne l'eccezione, non si applicherà più perché semina il terrore per, esatto, la compartecipazione, cioè, tutta la fuffa che abbiamo visto adesso verrà dimenticata e praticata al contrario praticata... da chi ci ha rotto il cazzo. Però diciamolo che aveva iniziato, massima stima, il governatore della Banca d'Italia, dicendo no, il bail-in in quanto è non deve essere retroattivo, delle argomentazioni sinceramente che io cioè, non capisco da dove escano. Poi è arrivato il presidente dell'ABI con l'attentato al principio costituzionale della tutela del risparmio. No, cari signori, noi andiamo in quella direzione e ci andremo sempre di più. Ricordo che a gennaio ne abbiamo parlato, ricordo l'editoriale che abbiamo scritto, sì, che ho scritto sul Sole, che diceva preparatevi al grande swap. In inglese swap vuol dire conversione. Alcuni lo traducono con cetriolo, ma siccome fanno un errore grave. Sì, ma sai come andrà a finire? Che questo alimenterà la solita canea populista che diranno in realtà si può fare in modo di evitare la conversione delle obbligazioni in azioni con la nazionalizzazione. Basta parlare, aprire la bocca. Ricordatevi, volete una mia previsione che non vale nulla? Il 2017 sarà l'anno della resa dei conti, non solo per l'Italia, ma su uno scenario forte, più ampio. Economico, abbiamo tre anni, ci sono dati la BCE per ripulire gli NPL e in tre anni vedremo Vedete, MPS è un template, appunto, e quindi bisognerà vedere questo banco di prova di riferimento come funzionerà. Continuate con la 24, appuntamento con me lunedì mattina alle 8:20 a Trentino 2 con Alessandro Milan e buon fine settimana a tutti. Grazie cari compari. Ciao. Fuck.